America 24 di Mario Platero. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Un incubo si è chiuso, sappiamo chi è l'attentatore, è stato arrestato, ormai lo sapete anche voi perché la notizia è in giro da ieri. Le dinamiche che hanno portato alla cattura di questo pakistano americano nato in Pakistan, naturalizzato in America, Faisal Shahaz, sono così dinamiche da libro giallo. Sentiamo il sindaco Bloomberg che dà l'annuncio dell'arresto. This was an act that was designed to kill innocent civilians and strike fear into the hearts of Americans. Ecco, per Bloomberg, per la città, e devo dire un grande sollievo, cioè il fatto che alla fine ci si renda conto che tutti questi attentatori che sono addestrati in Pakistan, perché ce n'erano stati altri tre non tanto tempo fa che avevano programmato degli attentati sui ponti, sui tunnel, e poi sono stati smascherati e arrestati grazie a una rete di informatori prima ancora che potessero portare avanti i loro attentati. Ecco, il fatto che queste persone vengano acchiappate, smascherate o che comunque non riescano a portare a termine i loro progetti, beh, devo dire, in qualche modo ci rassicura noi che abitiamo in questa città esposta a un rischio continuo. Beh, la storia dell'arresto la conoscete, ma comunque ve la racconto perché rappresenta come ormai è integrato il sistema locale, federale di investigazione. È intervenuta l'FBI, ha lavorato la polizia di New York, hanno lavorato investigatori dello Stato, funzionari del Dipartimento della Giustizia, insomma una rete che ha portato all'identificazione di questo personaggio davvero bizzarro che era stato in Pakistan per essere addestrato alla costruzione di bombe. Un addestramento che per fortuna, come abbiamo visto, non è di grande livello. Ecco, una rivelazione importante però è che se la macchina, se l'autobomba fosse davvero esplosa, il danno non sarebbe stato da poco come sembrava all'inizio. I calcoli sono che ci sarebbero stati sicuramente centinaia di morti, quindi sarebbe stata una cosa drammatica al di là dell'immaginabile. Comunque all'ultimo istante è stato beccato questo Shahaz mentre era già sull'aereo del Emirates Airlines, stava partendo per Dubai, l'aereo era già sulla pista in attesa del decollo. Gli investigatori avevano già identificato il suo profilo ma non sapevano dov'era. Poi è stata la stessa linea aerea che ha così segnalato questa presenza sospetta di un uomo che aveva comprato un biglietto di sola andata per il Dubai, che aveva pagato in contanti e che quindi così aveva in qualche modo destato il sospetto. Le autorità sono intervenute immediatamente, hanno fatto rientrare l'aereo, hanno arrestato Faisal Shahaz, il quale doveva essere immediatamente portato in tribunale ma poi ha cominciato a confessare. Dunque si stanno raccogliendo informazioni molto importanti, molto preziose. Sono già stati arrestati altri criminali in Pakistan. Dunque un'operazione che ha funzionato, una storia che ci ha terrorizzato ma che alla fine si è chiusa con un successo. Giornata di fuoco a Wall Street, caduta del 2,02% dell'indice Dow Jones, sotto quota 11.000, siamo a quota 10.926, il Nasdaq quasi il 3%, l'S&P 500 2,38, un po' un contagio perché le borse europee hanno fatto anche peggio. Cosa è successo? Dopo che sembrava che la crisi greca fosse sulla via della soluzione, ecco che è apparso così il fantasma del contagio. Ieri vi ho proposto un'intervista con Nuria Rubini in cui anticipava il fatto che potesse esserci un contagio in atto sui mercati. Sentiamo un passaggio di quell'intervista. La probabilità che alcuni paesi che sono adesso membri dell'euro ne vengano fuori, in particolare in questo momento la Grecia, è una probabilità che è aumentata molto rispetto al passato. Ecco, devo dire, è stato particolarmente profetico Nuriel, perché lui ha anticipato quello che sarebbe poi successo il giorno dopo. Mentre lui parlava sembrava che la crisi fosse in qualche modo risolta, eppure già lui diceva: secondo me ci vorrà un piano B. Dunque ci troviamo in una situazione davvero difficile, dobbiamo vedere se a questo punto il contagio va avanti, e una situazione situazione in cui in parallelo si cerca anche di tappare i buchi, le falle che si sono aperte durante la crisi, per esempio attraverso la riforma finanziaria, la riforma del sistema finanziario. In Senato è cominciato il dibattito, sono cominciati alcuni voti sugli emendamenti e soprattutto Tim Geithner, segretario al Tesoro, ha riproposto una regola molto dura, vuole una tassa sul capitale delle banche. L'ha spiegata, secondo lui è una tassa sul rischio, cioè lo 0,01%, dunque non una grossa penalizzazione sulla differenza fra il patrimonio della banca e le passività della banca, dunque su quella che resta come esposizione, come debito e dunque come rischio. Una tassa sul rischio, forse, visto quello che può succedere sui mercati, non sarebbe male. Allora facciamo un balzo sulla costa occidentale, sentiamo Daniela Roveda, la nostra corrispondente da Los Angeles, con una storia molto interessante, cioè un ospedale medico di volontari che fanno soprattutto assistenza dentistica e oculistica. Daniela, raccontaci questa storia, perché immaginare che a Los Angeles ci sia questo così ospedale mobile è sicuramente curioso. Com'era la scena? La scena è molto simile a un campo profughi, con degli accampamenti di medici che si muovono da un punto all'altro in uno grande stadio dove ci sono tavolate di strumenti medici, siringhe, garze insanguinate e lettini di fortuna dove dei dentisti volontari vengono e forniscono servizi medici, dentistici, oculistici alla gente che arriva perché non ha i soldi per pagarseli di tasca propria. E quindi siamo un po' così alla coda di quella situazione in cui si trova l'America senza assicuratore sanitaria. Cioè l'idea è che quando ci sarà l'assicurazione forse non ci sarà più bisogno di questo, vero? No, non è affatto vero, anzi gli organizzatori di questo ambulatorio di fortuna, una grande associazione di volontari, sono sicuri che dovranno tornare ogni anno a Los Angeles e probabilmente in tutte le grandi città americane, perché la riforma Obama non risolverà questo problema. Infatti l'assicurazione sarà obbligatoria per tutti, ma visto che è un'assicurazione privata le polizze sono talmente elevate che la maggior parte della gente non potrà permettersi soprattutto la copertura dentistica e oculistica. Ma la scena che ci hai descritto è un po' una scena quasi da terzo mondo, cioè uno stadio, una scena da terzo mondo, e questa è un'organizzazione nata 25 anni fa proprio per portare l'assistenza medica nelle zone remote del terzo mondo. Il fondatore, un inglese che si chiama Stan Brock, è iniziato nella giungla della Guyana, dove per arrivarci doveva essere paracadutato da un aereo, perché non c'erano strade per arrivarci, e ha fatto questo lavoro di volontariato per anni in Africa, in Sud America, nell'America centrale, e poi si è accorto qualche anno fa che c'era altrettanto bisogno anche nell'economia più forte del mondo, cioè gli Stati Uniti. E questo lo fa solo a Los Angeles o anche in altre città americane? No, ha iniziato prima nelle zone rurali isolate degli Stati Uniti, nei monti dell'Appalachia, in Kentucky, in Tennessee, in West Virginia, e dall'anno scorso per la prima volta è arrivato in una grande metropoli, a Los Angeles, e ha allestito questa clinica in agosto in un grande stadio, un'arena cittadina, dove il vecchio stadio dove giocavano i Lakers. Chi lo finanzia, Daniela? L'organizzazione si finanzia con donazioni umanitarie, poi ha dei contatti con delle società mediche che forniscono la strumentazione medica, e poi ha una rete di volontari, quindi sono medici, dentisti, oculisti locali che offrono i propri servizi gratis per tutta la settimana in cui si svolge questa clinica. Bene, Daniela, grazie mille, alla prossima. Alla prossima. Bene, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, L'Africa conquista Broadway. Lo dico perché ieri sono state rese note le nominations dei Tony Award, gli Oscar del teatro americano, gli Oscar di Broadway, e a sorpresa uno spettacolo nuovo, Fela, dedicato a un attivista per i diritti umani, un musicista nigeriano, Fela Anikupulakuti, che è conosciuto anche come The Black President, ha vinto ben 11 nomination. Sentiamo di Fela, Teacher, Don't Teach Me No Nonsense. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.